stavano per morire, nel senso che c'è tanto da camminare, non è tutto nello stesso posto, ma come vedete appunto ci sono già un po' di artisti che ritornano al sud, nel senso che Torino è una delle città più al nord in assoluto, per cui mezza Italia del mondo dell'arte contemporanea sale in questa fantastica città in cui finalmente ha piovuto. Probabilmente lo saprete, non pioveva da 2 mesi ed effettivamente l'inquinamento era molto alto, cosa da niente, ma insomma siamo sopravvissuti anche a questo. In questo speciale Artissima vi parleremo appunto di tutto quello che è successo lo scorso weekend. Tutto quanto è registrato, di nuovo non spediteci sms o messaggi su WhatsApp come al solito, perché non risponderemo, visto che io sono a casa a riposarmi e Fedra come al solito è in ufficio a lavorare, ma ce la faremo. Prometto che la settimana prossima io e Fedra saremo di nuovo uniti a Coxo Spaziale e forse con anche qualche ospite. Ci proviamo. Box. Sono ancora alle prime armi. Pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'ha. Ma andrei avanti tutto il giorno. Pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'ha pizza che c'è. Coxo spaziale. Artissima è decisamente la fiera più importante che abbiamo in Italia. Ha aperto, se non sbaglio, nel 94, esatto. Infatti quest'anno, proprio per festeggiare questa cosa, una delle novità di questa edizione è stata la mostra Il Deposito d'Arte Italiana Presente. Leggo: il nuovo progetto espositivo e culturale di Artissima, curato da Ilaria Bonacossa e Vittoria Martina, dedicata all'arte italiana dal 94 ad oggi. Il deposito ospita importanti prestiti dalle istituzioni piemontesi e opere provenienti dalle gallerie presenti in fiera. Infatti mi ha fatto piacere vedere un po' di di opere che non vedevo da un po'. Purtroppo non sono riuscito quest'anno, la fiera è stata diretta per la prima volta appunto da Ilaria Bonacossa, che era direttrice di Villa Croce a Genova. Purtroppo non sono riuscito a intervistarla, ma leggo dal comunicato stampa: il 2017 segna una ricorrenza importante non solo per Torino ma per tutto il mondo dell'arte, 50 anni dalla prima mostra dell'arte povera, appunto del 1967, la più rivoluzionaria, emozionante, poetica avanguardia artistica del dopoguerra, che sancì la vocazione contemporanea di questa città. Per celebrare oggi quell'energia creativa, Artissima richiama negli spazi dell'Oval due esperienze sorprendenti ma ancora poco conosciute di quegli anni: il Piper Club di Torino, attivo dal 66 al 69, e il deposito appunto dell'arte presente 67-68. La storia della discoteca Piper, culla di una fervente subcultura, viene rievocata dal progetto Piper Learning at the Discotheque, in cui appunto c'è stata una sorta di lezioni, conferenze, eccetera, che purtroppo ho visto solo da fuori, nel senso che il tempo era quello che era. Dopodiché scrive ancora: dirigere Artissima è per una curatrice l'occasione non solo per riscoprire il passato, ma per spiare il futuro dell'arte e metterne in discussione lo status quo. Le fiere d'arte contemporanea si distinguono per la dimensione non gerarchica della loro offerta, in cui la molteplicità delle ricerche artistiche ridefinisce il sistema globale dell'arte contemporanea. La fiera si sviluppa orizzontalmente come un rizoma, affiancando in una struttura diffusa e reticolare, accentrica, le opere di 700 artisti presentati da più di 200 gallerie. Effettivamente il numero delle gallerie, se non erro, è aumentato quest'anno, e con una metratura probabilmente minore per ognuna delle gallerie, per cui c'erano tendenzialmente lavori leggermente più piccoli, ma appunto come ho detto ai miei colleghi, sicuramente era tutto molto più fresco e frizzante. Devo dire che a me personalmente è piaciuta molto questa nuova versione di Artissima, e abbastanza strano era questo spazio dedicato al disegno, che era veramente tanto spazio per degli stand fantastici che ospitavano disegni, che era una nuova sezione di quest'anno, che quest'anno appunto era curato da Luis Silva e Joao Mourão. Perdonate il mio portoghese, ma non sono mai stato in Brasile, non ne so mezza. Appunto questa nuova sezione, che era nata appunto per valorizzare una pratica artistica in grado di catturare l'immediatezza processuale e di pensiero del gesto creativo. Effettivamente il bello di vedere disegni magari di artisti famosi eccetera è proprio questo, la velocità del pensiero che si sviluppa tramite dal cervello va al braccio, che va alla matita, alla penna, e va alla carta. Questo gesto, ne parlavo l'altro giorno con il mio amico Roberto Tomba, che lui appunto sente questa mancanza di uso della penna come problematico per il nostro futuro, perché effettivamente a livello filosofico la velocità con cui appunto dal cervello al foglio di carta riusciamo ad arrivarci in maniera manuale, con il tablet, con il computer, diventa diversa, il ticchettio diventa diverso, non è la stessa cosa. Detto questo, sto divagando completamente al di fuori di quanto è questo speciale Torino Art Week, per cui... ポカポカ歌は弾む。 埋れ空も前ならえ言っててぶつかったら米のポーツピョコピョコカエルピョコピョコカエルシャカシャカ歯磨きシャカシャカ歯磨きパンパンパンツパンパンパンツどんどん前どんどん前どんどん前せーのどんどん前どんどん前 mi si è fermato il cuore. Sono Paolo Rassei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Arte contemporanea. Questo era Dong Dong Mai, giusto? Sì, Dong Dong Mai. Che significa? Bu. Non lo sai perché è giapponese. Cantato da Haru Suzuki. Haru Suzuki. Haru Suzuki. E Haru vuol dire la primavera. La primavera Suzuki. La moto che di primavera, no. Può dire anche così. Ok. La moto di primavera, bellissima. La motocicletta della primavera, fantastico. Smettila di dire cazzate. E invece no, noi continuiamo imperterriti in questo speciale artissima e vi volevo anche raccontare che c'era stata una sorta di querel tra Flashback, la fiera dell'arte moderna, diciamo, è anche antica e artissima, in una sorta di botta risposta tra Gianenzo Sperone, gallerista famosissimo che appunto parte da Torino per poi andare a New York e ora è tornato, anzi si è riavvicinato in Svizzera, e Ilaria Bonacossa, la direttrice di Artissima. Tra di loro, appunto, tramite la stampa c'è stato questo botta risposta. Uno dice, Gianenzo Sperone dice, non vado ad Artissima, dove peraltro non sono stato spesso, perché quello non è più il mio tempo e non è il mio spirito. Così, leggo da Art Tribune, Gianenzo Sperone commentava in un'intervista pubblicata dal quotidiano La Stampa, che gli chiedeva perché avesse scelto di esporre a Flashback invece che ad Artissima. Dopodiché la Bonacossa invece commenta in questo modo: credo che sia giusto che Sperone stia a Flashback, è rimasto un uomo molto intelligente, venire qui a fare il vecchio gallerista con le opere desuete non gli interessava. Naturalmente questa parola desueta a Flashback, che comunque è una fiera interessante, non è piaciuto tanto, ma a me è sembrato soprattutto che tutto questa botta e risposta non fosse altro che la voglia di farsi un pochino di pubblicità in più. Siamo andati a Flashback e abbiamo casualmente incontrato uno degli artisti che maggiormente rappresenta quella fiera, che è Alessandro Bulgini. Io come artista ho messo la faccia fin dal primo giorno di Flashback, dove il primo post, io curavo Facebook, il primo post è Flashback è opera d'arte. La prima cosa che ho scritto è questa: io come artista dichiaro opera d'arte difendere questo luogo che appunto determina questa lettura. Cioè per me tutta l'arte è realmente contemporanea, attiva, vivissima, dirompente, un'opportunità, il preesistente come opportunità. Io dichiaro questo, non me ne frega un caso, ma non è nemmeno anche retorica, io lo sento così. È spostamento di pensiero, cioè... ed è, in realtà stiamo parlando di nulla, cioè è base, capito? No, vabbè, no, non sono è, il problema è che non è, evidentemente non è base. Evidentemente non è un problema, hai ragione. Che sul giornale, oggi, La Stampa dice Flashback esclude la contemporaneità. C'è scritto questo sulla stampa. Sì. Questi sono matti. We'll be right back. Questi erano gli Swank con un pezzo chiamato Ore 22 e ringraziamo Francesca Grispello che ce li ha segnalati. Se volete sapere di più, è appena uscito il loro nuovo disco, se li trovate su Facebook, facebook.com/swankinfusion, e Swank è scritto SWUNK. E dicevamo, siamo sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko, sempre a Coxo Spaziale, sempre allo speciale Torino Art Week, che è finito, questo weekend d'arte contemporanea che è finito la scorsa domenica. Dicevamo, quel weekend, no anzi poco prima, aveva inaugurato anche la prima retrospettiva di Gilberto Zorio a Torino. Gilberto Zorio, forse lo saprete, è uno dei maggiori esponenti, anzi uno degli artisti chiave dell'arte povera, tra i più giovani del gruppo. Non aveva mai avuto una retrospettiva a Torino, malgrado l'importanza del suo operato. Io purtroppo questa mostra, che mi dicono essere bellissima, non sono ancora riuscito a vederla, sicuramente riuscirò ad andarci nelle prossime settimane, ma fortunatamente Zorio era presente ad Artissima, appunto, ha raccontato un po' della sua mostra in fiera. Mi scuso per la cattiva qualità della registrazione, ma penso che comunque abbia un suo perché ascoltare Zorio nelle sue parole. Ho colto questa mostra, che è di grandi dimensioni fisiche, l'ho raccolta delle mie opere, dei miei lavori in giro, in studio, eccetera, in posti, depositi, e li ho rimessi insieme, come praticamente faccio da qualche anno a questa parte. Perché? Perché rimettendole insieme, oltre ad avere c'erano delle emozioni molto forti, le quali poi derivano appunto dalla memoria, mi sono ancora una volta azzardato a unirle anche in contrasto e anche con epoche, date diverse, no? Cioè c'è un lavoro due lavori del 66, poi c'è 67, e c'è 68, eccetera, fino adesso. A me interessa sempre unire, collegare, fare una specie di trama, un tessuto. Questo tessuto che cosa fa, cosa mi dovrebbe rivelare, e anche al pubblico, il cammino è stato già lungo e sarà ancora lunghissimo, i contrasti diventano poi dei contatti veri, diventano poi... Io ho trovato a Pierino e c'è molta amicizia tra opera e opera. Adesso appunto elevo il livello e passo dal lavoro opera, al termine opera. Credo che questa mostra, se non avete altro da fare, potete anche andare a visitare, perché per me a volte è commovente quando la rivedo. È stato molto difficile da montare, perché non tutto è un edificio un po' vecchiotto, del 700, però ci siamo capiti anche con Iubarra, ho capito che non era in contrasto. Cioè, devo dire che è molto più accogliente il Castello di Rivoli che per esempio il Maxi, perché il Maxi è un'opera, è un'enorme scultura esterna e anche una scultura interna, per cui c'è una rivalità provocata sia dalla forma dei volumi interni e esterni, che da un'incredibile moltiplicazione dei pari e dei pesci, cioè le difficoltà che aumentano a vista d'occhio, perché in un edificio a piantare chiodi, edificio a impianto elettrico, difficile tutto. A Rivoli, malgrado gli acciacchi dell'età sua e mia, perché della struttura è mia, ce l'abbiamo fatta, spero bene. Aya naibana, that is the town of the living dead. I and I born a living dread. In that is the town of the living dead. I and I born a living dread. In that is the town of the living dead. Slayed and forsaken. Spiritual education for who never know fate. Some live like dirty zombie, yet them think them live greater. Help from the Zionites we are sent for. How many a buzz like mosquitoes, so we light in all the papers. For those who crave the dollar sign of blessings from the Savior. We standing for justice, we no falling for no paper. Where we going to place our heart? I and I born a living dread. This is a town of the living dead. I and I born a living dread. In a this a town of the living dead. I and I born a living dread. In a this a town of the living dead. I and I born a living dread. In a this a town of the living dead. Oh yo, I and I born a friend individual and raised as an instigator. Some boy face look physical, cause I'm a dread from incubator. I'm not a rocket science, put away the calculator. I just don't like what I see. I think we're heading to the precipice. From way back when, from Genesis. Raising walls on premises, laying picnic in a cemetery. Divided by iniquity, divided by geography. I guess we'll never, never stop. I and I born a living dread. In a this ya town of the living dead. Torino Art Week, oltre a tante fiere appunto e a tante mostre, quasi tutte le gallerie private torinesi inauguravano in contemporanea, ha visto l'apertura di questa doppia mostra alle OGR e alla Fondazione Sandretto Rare Baudengo, di cui vi faccio sentire una piccola chicca. In questa collettiva, la Fondazione Sandretto Rare Baudengo, c'è questo fantastico pezzo di Tino Segal che consiste in una ragazza che ti avvicina e ti canta con una voce meravigliosa davanti. Blue is the color of of the planet from the view above. Long live our rain, long live our love. Green is the planet from the eyes of a turtle dove, till it runs red, runs red with blood. We get so tired and we complain about how it's hard to live. It's more than just a feed you get. But we're just beautiful people with beautiful problems. Beautiful problems, God knows we've got them, but we gotta try. La, la, la. Every day and night. La, la, la. Blue is the color of the shirt of the man. Spaziale. Ebbene sì, siamo ancora a Coxo Spaziale, ancora su Radio Città Fuggico, ancora parliamo della Torino Art Week che si è conclusa la settimana scorsa e parliamo di Next, anzi Next, Next è scritto N-E-S-X-T. Ed è un progetto interdisciplinare nato l'anno scorso dedicato alla produzione artistica indipendente che contiene già nel suo nome la sua triplice identità: NET come network in divenire, NEXT come futuro per un osservatorio critico e condiviso e NEST, ovvero una casa aperta, un nido ad accogliere tutte le pratiche più contemporanee nel campo delle arti visive, performative, sonore e di contaminazione tra generi. Next quest'anno era in uno spazio diffuso, ovvero aveva un headquarter in via Quittengo a Torino e un sacco di altri spazi in giro per la città, per cui difficile da fruire, proprio per il fatto che appunto c'erano anche un sacco di altre cose in giro ed era difficile poter vedere tutto. Ci abbiamo provato, io sono stato nello spazio di Stefania Galegati, che è una artista che ha un bar a Palermo in cui succedono un sacco di cose interessanti di arte contemporanea e di musica, e si chiama Il Caffè Internazionale. Andatevelo a scoprire se vi capita, andate a cercare il suo sito, anzi lo troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Dicevo, Next è sicuramente una delle cose più strane e interessanti che succede a Torino in quel weekend, e anche loro erano presenti ad Artissima, anche gli organizzatori di Next, in questo caso Olga Gambari, che diciamo è la direttrice, era presente ad Artissima, e proprio Stefania Galegati ha chiesto a lei ma perché voi ci invitate, e lei ha risposto in questo modo. Per non fare della teoria, e quindi per non dare, e questo è stato un punto molto importante anche nel confronto con Pietro, con le altre figure del nostro comitato, per far parlare direttamente le pratiche, i progetti, questi organismi veramente viventi che sono presenti in ciascuno dei vostri progetti. Avevano una presentazione progettuale. Hai detto una cosa bella che non è uscita prima, organismi viventi. E quindi non puoi creare l'idea di creare una piattaforma, di creare una situazione che presenti, che sia viva, perché continui ad ospitare, creare delle occasioni di presentare, di mettere in rete, però di presentare soprattutto. Un'altra domanda, ma come lo finanziate adesso? Allora, noi lo finanziamo, e questo è un aspetto importante, perché in questi giorni, parlando con Carola di Radio Potesse, che sta sviluppando questo progetto, ha chiacchierato con ciascuno di voi sull'alfabeto ideale della dimensione dell'indipendenza, e partendo da questa parola, cosa significa indipendenza, presa con tutte le sue possibili aperture, dall'autonomia, infatti una parola molto importante, con una sfumatura diversa, però fondamentale, cioè che autonomia che contiene una responsabilità, una consapevolezza, quindi un fare differente, prima di tutto verso se stessi, verso la consapevolezza del proprio ruolo, della propria presenza. E alla domanda di Carlo io ho avuto un'immediata risposta, che era la parte economica, e ho molto pensato poi a questo, perché ho sentito delle risposte per caso di altre persone, e quindi appunto su questa idea dell'autonomia e della consapevolezza di sé, per me la parte del finanziamento è molto importante, per me la libertà è quello che mi permette di essere indipendente, di poter creare in questo caso, non come altre situazioni progetti da curatore, diversi professionalmente. Comunque la libertà di avere degli sponsor che mi lasciano libera di poter fare un progetto, per me questa libertà consiste nel creare un luogo in cui ciascuna di queste realtà, di questi organismi viventi, possa essere, senza un a priori teorico. Questo è veramente fondamentale. No, però questo è fondamentale. Cioè una parte di teoria che sia sempre vitale, e un confronto, un dialogo, cioè mille di questi incontri, delle vostre giornate di incontro, di quello che abbiamo fatto da Spazio Bianco con le giornate che risiedono della guerra ieri. Ecco, e quindi questa è la parte importante di una teoria che sia sempre un dialogo, un discorso aperto, ormai una teorizzazione, per carità. E l'indipendenza di creare un luogo in cui siate, accogliate, e siate un momento di confronto anche per voi stessi, per tutti, un luogo di condivisione e di incontro per sociale. E dunque Next è un corpo vivo e come tale imperfetto, autocritico nel riconoscere l'esperienza come strumento fondamentale per crescere e mutuare forma e contenuto. Penso che anche a Fedra piacerebbe molto questo festival, proprio per il suo essere fluido così. Continuo a leggere dal manifesto di Next. Next vuole essere l'avamposto di un sistema che si autogestisce, si anima di precisi valori, chiamando in causa la sperimentazione dei linguaggi, l'approccio collettivo della ricerca, il coinvolgimento e la restituzione al territorio, l'interazione tra ambiti e il nomadismo, inteso come nuova pratica di valorizzazione territoriale, svincolato da principi di localismo, piuttosto infarcito di internazionalità, che significa innanzitutto accoglienza e contaminazione. In questo modo Next guarda all'operazione artistica di ultima generazione come un evento ardito e significativo per raccontare il presente e l'unico in grado di indicare direzioni future. Tomo. Non possiamo lasciarvi senza il nostro L'angolo della menzione. E sabato 11 novembre, ovvero domani alle 18.30, ad Adiacenze, vi invita alla presentazione di Street Art in Sicilia. È una guida alternativa che propone un viaggio straordinario attraverso le opere più interessanti e rappresentative realizzate in Sicilia, dal muralismo artistico ai segni più effimeri come stencil, poster e collage, fino agli interventi che interagiscono con gli oggetti urbani più comuni. Tutto questo con i tre autori del libro, Mauro Filippi, Marco Mondino e Luisa Tuttolomondo, e l'artista Nemos, che per l'occasione allestirà negli spazi di Adiacenze una mostra delle tavole del suo ultimo libro H2O, edito da Logos Edizioni. Modererà l'incontro Claudio Musso, e questa è all'Associazione Culturale Adiacenze in Vicolo Spirito Santo 1B a Bologna. Invece alle 21 la festa di San Martino, ovvero l'11 novembre, armonicamente insieme, concerto corale strumentale a cura dell'associazione Consonanze, che abbiamo avuto qua con noi, non so se vi ricordate, qualche mese fa. Gli esecutori saranno della serata saranno il coro Consonanze, Fabio Rizza all'arpa celtica, Antonio Laganà al violino, Gianni Calcaterra al contrabbasso, Cinzia Simula al flauto, Gressi Sterpi in filarmonica, Chiara Trapanese alla voce, Maurizio Mancini alla chitarra. E questo è domani dalle 21 alla Casa della Conoscenza di via Porrettana 360 a Casalecchio di Reno. E naturalmente troverete tutto quanto su www.coxospaziale.blogspot.com da sabato mattina, da domattina, per cui quando vi svegliate andate a controllare e poi venite a vedere armonicamente insieme. Questo è tutto, direi, per oggi. Come al solito, le parole del nostro carissimo direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Recognize the genius, but I'm twice as bold. I have more to say than Hemingway. Lord knows, compared to Faulkner, I say it in a better way. Graham Greene, he loves me. He loves my poetic sensibility. Catherine Ann Porter might be the best one now. But in about a year I'm gonna show her how. Avete ascoltato Coxo Spaziale, 196esima puntata. Salutiamo Fedra, che speriamo sarà con noi la settimana prossima. Saluti a tutti. Buona serata. The other day Proust really is the man who comforts me in a way no other writer can. The timeless quality of the work, the length is very long. Believe me, Marcel Proust goes on and on and on and on for 7 volumes. Now Harper, Harper, Lee, Lee, Lee, she only wrote the one book, I've written more than 3. Darling Tennessee Williams, it's anybody's guess why Streetcar made millions and Wedding so much less. I will forever be pondering that one. Talk about Eudora Welty. As for F. Scott, my sad cafe is greater than his Gatsby. I'm just telling you what someone told me they read, 'cause I never look at my reviews, they might give me the big head. Now Truman Capote was hypnotized, mesmerized, 'cause he realized that I knew that he knew that he had plagiarized my cadences. Imagine his surprise, you'll see it in his eyes when I win that. She deserves, honey, she's poaching on my literary preserves. Yes, from Harper Lee we have seen and we've heard, and I'd like to kill more than just that mockingbird. Well, you know, sometimes I really would. So you just